in primo piano. Buongiorno, buona domenica da Giulia Crivelli, bentornati alla nostra rassegna stampa. Spero che i giornali vi siano un po' mancati, siamo stati senza per due giorni per la consueta pausa natalizia dei quotidiani e oggi appunto i giornali tentano un po' di recuperare. È curioso vedere come in questi casi c'è un po' di desiderio di seguire la cronaca, ma anche di riprendere temi che appunto, non essendoci stati i giornali, sono mancati completamente. Il Corriere della Sera sceglie di aprire sul scontro, quello che viene definito lo scontro sui rimedi antismog. Perché scontro? Perché, come forse sapete, a Milano nei prossimi tre giorni le auto non potranno circolare tra le 10 e le 16, Roma prosegue con le targhe alterne, però molti spiegano che sono veramente dei palliativi, piccole iniziative che qualche cosa male non fanno, ma sicuramente non risolvono la situazione dello smog. E allora spiega il Corriere, Pisapia e Salvini divisi sul blocco a Milano, e poi questa notizia che è di cronaca, anche se di due giorni fa, che a Roma a Natale ci sono stati metro e bus per un provvedimento che faceva terminare il servizio alla fine della mattinata. La fotonotizia però è di Papa Francesco, che ha fatto questo appello nel giorno di ieri, nel giorno di Santo Stefano, per tutti i cristiani uccisi nel mondo. Quindi l'appello del Papa con un articolo di Gian Guido Vecchi. Il Sole 24 Ore torna un po' sui temi economici, con da una parte tutte le riforme che stiamo cercando di Renzi continua a dire che sono state fatte, che molte altre ne verranno, però il Sole 24 Ore, con il sistema Rating 24 che proprio dà un voto all'attuazione delle riforme, le esamina tutte e la conclusione è: il taglia leggi spinge le riforme, l'attuazione sale oltre il 72%, ma con la manovra dovranno essere varati altri 155 decreti, perché sapete che a volte più delle leggi, anche quelle di emergenza, servono poi i decreti attuativi. E poi vi dicevo, altro grande tema che ci riguarda tutti, quello delle scadenze fiscali, perché ce ne sono ancora, mancano soltanto 4 giorni alla fine dell'anno, ma ci sono le scadenze di fine dicembre: lunedì 28 versamento dell'acconto IVA, martedì 29 presentazione del modello unico tardivo, mercoledì 30 invio dei documenti per il rientro dei capitali, giovedì 31 richiesta per accedere al patent box. E da qui il commento di Giovanni Parente: fisco ingorgo di fine anno. E poi vi segnalo che da domani, sul Sole 24 Ore, lo vedremo nei prossimi giorni, ci sarà una guida per la manovra, la legge di stabilità. 10 inserti a partire da domani, appunto, per capire che cosa cambia. Vi segnalo ancora sulla questione delle banche un approfondimento sulla famosa, famigerata commissione d'inchiesta che forse si farà, forse non si farà. Il titolo: commissione d'inchiesta si frena. Banche, dubbi in Parlamento sull'indagine, il governo studia una norma primaria per i poteri dell'autorità di controllo sulle banche, preoccupazione anche al Colle, cioè da parte del Presidente della Repubblica Mattarella, per i rischi sistemici. Il commento in questo caso è di Marco Ferrando: la forza di un sistema solido. La lettera al risparmiatore della domenica, come ogni domenica sapete, questo focus di una pagina intera a cura di Vittorio Carlini, un collega della redazione di Finanza, su un titolo quotato. Il titolo scelto questa settimana è Asco Piave, più business regolato contro la diminuzione del prezzo del gas. La Repubblica sceglie di aprire su un altro argomento ancora, l'avete sentito anche nei GR, questa allerta nelle capitali, un'allerta terrorismo, e c'è un'intervista al ministro degli esteri Gentiloni: lo Stato islamico è pronto a colpire ancora, ma in Iraq sta perdendo, questo giudizio di Gentiloni. La foto è quella, una foto scattata a Milano, è proprio, sembra, potrebbe essere, se uno lo sapesse, quasi una tempesta di sabbia, una foto in un tramonto. In realtà è una foto che dimostra come lo smog sia le polveri sottili, quindi sostanzialmente abbiano raggiunto livelli record a Milano. Si vede questo profilo un po' quasi spettrale, sia del grattacielo Pirelli sia del Duomo di Milano, avvolti appunto nello smog. Il Messaggero ha un titolo molto simile a quello del Corriere della Sera: smog, blocchi e polemiche, allarmi nelle città, inquinamento record, stop delle auto a Milano, targhe alterne a Roma e il clima impazzito, inverno mai così caldo. E da qui per esempio la fotonotizia della Stampa, che invece è stata scattata a New York, dove si vedono i turisti o comunque i newyorkesi a spasso in maniche corte perché la temperatura ha toccato i 21 gradi, un record assoluto naturalmente per l'inverno newyorkese, che in genere è abbastanza rigido. Il commento è del meteorologo Luca Mercalli: non dimentichiamo questa lezione. Un'apertura, però, questa diciamo che è la fotonotizia ed è proprio in primo piano sulla copertina della Stampa, che però ha anche un articolo in grande rilievo sulla prima pagina, che riguarda un'altra riforma che potrebbe aspettarci, ed è quella della legge fallimentare. Il decreto legge del ministro della giustizia Orlando appunto prevede una legge per diminuire i danni dei fallimenti, creditori pagati con un fondo nazionale. Sapete che ci sono tantissime differenze appunto tra le leggi fallimentari dei vari paesi. Si è spesso invocato il modello americano del Chapter 11, che permette a un'azienda in un certo senso di congelare tutte le attività e riprendere in qualche modo senza che il fallimento diventi un blocco totale. Cioè, tra l'altro, lo vedrete forse su alcuni giornali, a proposito di questo, del blocco delle attività che portano al fallimento, anche mi viene in mente appunto per associazione di idee la vicenda della fonderia del Bresciano, dove si è verificato quell'omicidio, che adesso è stata bloccata e si rischia il fallimento appunto per un blocco che nulla ha a che fare con l'attività reale dell'azienda. Vi segnalo la fotonotizia del Manifesto con il solito titolo immaginifico: maltempo si spera. La foto è di una cinese che si fa un selfie a Pechino, probabilmente insomma forse ha ragione, per ricordare in qualche modo anche questa situazione di smog totale. Pechino è sicuramente tra le grandi città del mondo, tra le metropoli del mondo, quella messa peggio. Sono mesi ormai che vengono trasmessi dalle autorità allarmi e inviti a non uscire addirittura. Il manifesto, a pagina 2 e 3 approfondisce poi tutta questa vicenda dello smog legata al cambiamento climatico, visto che continuiamo a avere conferme che questo è un inverno e l'inverno più caldo. Il 2015 è stato l'anno più caldo, adesso abbiamo questo inverno che si protrarrà quindi nel 2016 altrettanto caldo, un record che per molti è un segnale inequivocabile dei cambiamenti climatici. È inverno ma sembra primavera, temperature mai viste da New York al Polo Nord. I cambiamenti climatici sconvolgono il mondo, Pechino affoga nello smog, tornado a raffica nel sud degli Stati Uniti, emergenza alluvioni in Gran Bretagna. La febbre del pianeta è aumentata di quasi un grado in un anno. Il UK Met Office, quindi l'ufficio meteorologico britannico, lancia l'allarme: il 2016 sarà l'anno più caldo della storia, a rischio gli obiettivi del COP21, la conferenza sul clima che si è chiusa 10 giorni fa a Parigi. L'Unità ha un titolo anch'esso collegato al clima, in questo caso Natale a Pechino. È il film delle nostre città inquinate da smog nel 2015, più caldo e meno piovoso del secolo. E poi anche qui un accenno al fatto che a Milano c'è questo stop delle auto, a Roma proseguono le targhe alterne, anche se sappiamo che poi non vengono rispettate, o almeno non lo sono state nei giorni scorsi. L'emergenza però è strutturale. Il Giornale ha un titolo ancora diverso, che parla di tasse, ma non nel senso, come fa il Sole 24 Ore, delle imminenti scadenze, ma di quelle che verranno anche nel 2016, con un titolo: sinistra sanguisuga, ecco le tasse che verranno, altro che tagli, nei prossimi 3 anni 56 miliardi di imposte in più. E poi vi segnalo anche, perché poi vedremo che su Libero la questione viene vista da un taglio, da un angolo completamente diverso. Secondo il giornale, i sondaggi premiano Berlusconi, il centrodestra unito supera il PD. Confermata la linea del Cavaliere, un'eventuale coalizione con Lega e Fratelli d'Italia volerebbe al 32,9%, staccando i Dem, in calo al 30,2%. E invece, appunto, su Libero si parla del declino di Berlusconi con Giampaolo Pansa, il 25 luglio del Cavaliere, prima o poi ci sarà. E poi altri articoli molto duri sul fatto che comunque la destra divisa non vincerà. E abbiamo detto invece il sondaggio del giornale che parla di una destra unita che potrebbe battere il centro-sinistra. Insomma, naturalmente i sondaggi vanno presi per quello che sono, appunto, dei sondaggi, però sicuramente nel centrodestra, come del resto del centrosinistra, c'è ancora molta confusione, anche in vista, ne parlano alcuni giornali, delle elezioni che ci aspettano, le importanti elezioni amministrative che ci aspettano in primavera, con l'elezione dei sindaci di, in particolare, Milano, Roma e Napoli. Il Fatto Quotidiano prende in giro Renzi con questo titolo: troppo smog, ideona di Renzi, altre 9 inceneritori in 8 regioni. Questi, secondo anche COP21, gli inceneritori sicuramente bene al clima non fanno, al riscaldamento globale, però insomma è stato dato il via libera. E d'altro canto, a volte non ci sono alternative concrete agli inceneritori per risolvere il problema dello smaltimento dell'immondizia. Avvenire titola su quello, sul discorso sull'appello del Papa fatto ieri: mai più silenzio, il Natale del Papa per i cristiani perseguitati. E oggi tra l'altro si celebra il Giubileo della Famiglia, perché sapete che all'interno sotto il grande cappello di ogni giubileo poi ci sono, e questo che è in corso è il Giubileo della Misericordia, però poi ci sono singole giornate dedicate appunto a piccoli grandi singoli giubilei. Oggi è quello della famiglia. Ma veniamo un po' alle pagine interne prima di passare ai supplementi domenicali, che comunque oggi abbiamo un pochino più di tempo per leggere. E allora c'è l'altra grande questione industriale aperta in Italia, che è l'ILVA, e Domenico Palmiotti ci racconta nella prima pagina di Imprese e Territori del Sole 24 Ore, pagina 11, faro dell'Unione Europea sugli aiuti all'ILVA. Naturalmente era un atto previsto, nel senso che una volta annunciato il piano del governo era chiaro che l'Unione Europea volesse capire se questi sono di fatto aiuti di Stato, e però adesso appunto si vedrà se questo ennesimo piano per l'ILVA troverà anche l'opposizione dell'Unione Europea. Vi segnalo, prima della pausa sul traffico, un articolo dal Corriere della Sera che torna sulla questione di Banca Etruria con Fiorenza Sarzanini, una delle la cronista di punta di giudiziaria del Corriere della Sera, che sta analizzando tutte le carte. E questo è un primo risultato dello studio delle carte, dove ci sono le accuse alla mala gestione di Banca Etruria. I palazzi dell'Etruria svenduti e ricomprati, il sospetto delle consulenze ai prestanome. Banca Italia ammette profili di anomalia nelle cessioni, le indagini sui beneficiari dei compensi. E qui tutti i dettagli a pagina 13 del Corriere della Sera. Ci fermiamo un attimo per le informazioni sul traffico. In primo piano. Ancora buongiorno e buona domenica da Giulia Crivelli. Eravamo sulle pagine interne dei giornali, dal Corriere della Sera, che comincia un po', ma credo che nei prossimi giorni lo faranno tutti i giornali, a riepilogare i fatti salienti del 2016. Molto interessante, ho trovato questa pagina di Danilo Taino, la pagina 17, che torna sulla questione della Grecia: quanto ci siamo occupati di Grecia, soprattutto in estate. Ora il Danilo Taino ci racconta: la rottura dell'euro, il fantasma ellenico resta con noi. Il Fondo Monetario ritiene oggi che la situazione dell'economia greca sia molto peggiorata rispetto a un anno fa, che sulle riforme si siano fatti passi indietro e che il programma concordato tra Atene e creditori non funzionerà. E questa è sicuramente una previsione pessimistica, però trovo che sia anche, insomma, giusto tornare, non far finta di niente sulla Grecia, come se l'accordo faticosamente raggiunto alla fine dell'estate avesse risolto tutti i problemi, perché evidentemente così non è. E a volte ho segnalato anche alcuni articoli che forse soltanto il Manifesto pubblica, dove si seguono le politiche, le vicende interne della Grecia, con la fatica che sta facendo il governo Tsipras, e adesso il Fondo Monetario sembra confermarlo, a introdurre le famose riforme. Vi segnalo dalla Repubblica un'intervista a Rossella Orlandi, direttore dell'Agenzia delle Entrate: vicini al record di recupero evasione di 14 miliardi, questo l'annuncio. L'unico, abbiamo visto, anche con le scadenze imminenti, l'unico precompilato è ormai un traguardo per 10 milioni di italiani sulla famosa questione del limite dell'utilizzo dei contanti alzato di recente a 3.000 euro. Rossella Orlandi, che all'epoca aveva espresso le sue perplessità, ribadisce sarebbe meglio che tutte le spese fossero tracciabili. E poi un racconto bellissimo fatto da Concita De Gregorio della storia di Franca Viola, che nel 1967, forse pochissimi di noi se lo ricordano, lo hanno sentito raccontare da qualcuno, rifiutò di sposare l'uomo che l'aveva violentata e il suo coraggio cambiò il codice penale. E ora, a distanza appunto di 50 anni, dice: ho fatto la storia con il mio no alle nozze riparatrici, e invita tutte le donne, anche quelle di vittime di violenza, oggi a non avere mai paura di lottare. E poi una storia bella raccontata sulla stampa da Paolo Mastrolilli, una storia dall'Alaska, l'Alaska che è ricca di pozzi di petrolio e un po' come alcuni paesi arabi, per questa ricchezza era riuscita praticamente a azzerare le tasse ai suoi cittadini. Ora, con il crollo del prezzo del petrolio, racconta Mastrolilli, l'Australia mette fine al suo sogno. Il petrolio in caduta libera, addio paradiso, il calo degli introiti costringe lo Stato a rimettere le tasse. Vi segnalo un ultimo articolo dal Messaggero, poi passiamo ai supplementi domenicali, sul capitolo delle adozioni gay. Secondo il Messaggero ci sarebbe questa che viene definita la mossa del PD, sarebbe in programma, e quando i nostri parlamentari si degneranno di tornare dalle loro lunghe vacanze dopo l'Epifania, potrebbe appunto riprendere l'iter di questa riforma, insieme al Movimento 5 Stelle. Dopo l'intesa sulla consulta, i Dem sono decisi a fare il bis sulle unioni civili per isolare il nuovo centrodestra, ma Sacconi del nuovo centrodestra appunto avverte inevitabili ripercussioni politiche. Ma passiamo ai supplementi domenicali, come vi dicevo, e cominciamo come sempre dal nostro, la Domenica del Sole 24 Ore, e vi leggo il breviario di Gianfranco Ravasi, che oggi si intitola Cana di Galilea. Questa è la citazione: Signore, faccia ricordare che il tuo primo miracolo alle nozze di Cana lo facesti per aiutare alcuni esseri umani a far festa. Facci ricordare che chi ama gli esseri umani ha anche la loro gioia, perché senza gioia non si può vivere. Scrive Ravasi: sono passato tante volte in Terra Santa lungo le stradine del villaggio di Cana, in mezzo a case modeste, a orti con alberi di melograno, tra bimbetti vocianti. Entravo nella chiesa silenziosa dei francescani, scendevo nella cripta dove un'anfora ricordava il primo miracolo di Gesù. Un miracolo, come suggerisce Dostoevskij nel testo che ho citato, non clamoroso, anzi fatto su pressione della Madre Maria, è destinato a risolvere un imbarazzo e uno sconcerto: rimanere senza vino al pranzo di nozze. Cristo interviene quindi non per salvare un disperato o sanare un malato grave, ma semplicemente per togliere una nube dal cielo della gioia di una coppia. Sono questi i miracoli che possiamo, anzi dobbiamo fare tutti. Senza gioia non si può vivere, perciò facendo felice un altro noi compiamo il miracolo di una risurrezione. E poi la rubrica del nostro direttore, nostro di Radio 24, del Sole 24 Ore, Roberto Napoletano, il regalo di Natale del mio sud dimenticato da tutti. Un po' un viaggio nella memoria di Roberto Napoletano, che cita Natale in casa Coppiello, la famosa commedia, di forse uno dei capolavori di Edoardo De Filippo, e poi anche il rito del presepe, ma anche, tornando sulla questione del sud, appunto come alcuni di questi simboli, come le commedie di Edoardo De Filippo, ricordino anche molte tradizioni del sud e debbano rilanciare anche il tema del divario economico che ancora affligge il sud rispetto al nord del nostro paese. La copertina, però, il pezzo, il cover della Domenica, è dedicata a Enrico Fermi. Fermi a Firenze: per capire la grandezza del fisico italiano bisogna soffermarsi sul lavoro svolto ad Arcetri esattamente 90 anni fa, prima di quello importantissimo fatto a Roma e quello fatto a Chicago. E vi ricordo, perché naturalmente viene ricordato anche sulla copertina del Sole, che c'è questo regalo, se vogliamo, che il Sole 24 Ore fa a tutti i suoi lettori, o magari ad altri nuovi lettori, che è quello dell'archivio della Domenica. Lo trovate, 32 anni di appunto supplementi domenicali all'indirizzo www.archiviodomenica.ilsole24ore.com. Molto interessante un articolo di Carlo Melzi de Rille e Giulio Enea Vigevani, intitolato Non spuntiamo le parole, illustrato tra l'altro dalla copertina che il New Yorker dedicò alla strage di Charlie Hebdo, quindi all'inizio di quest'anno. La copertina è dell'illustratrice Anna Juan e si vede la Tour Eiffel, la punta della Tour Eiffel è una matita, quindi l'idea appunto è tra l'altro sul fondo della Tour Eiffel c'è un rosso che naturalmente ricorda il rosso sangue della strage, e quindi l'idea di questo articolo: le regole ispirate dalla paura danno un senso di sicurezza fittizio ma non portano a una vera soluzione dei conflitti. Dal Sole 24 Ore vi segnalo anche un'interessante recensione di Carla Moreni a un'opera di Wagner messa in scena da Graham Vick, il regista inglese che non è nuovo a così regie un po' controverse, e da qui il titolo alla regia, in questo caso lo spettacolo è il Siegfried di Richard Wagner in scena a Palermo, Siegfried casalingo e disperato. Graham Vick cancella l'epica da Wagner e ne fa un racconto di violenza quotidiana. Il pubblico in sala non apprezza ed esce. E qui è un po' il tema di come a volte fatta salva la musica e le parole dell'opera, come magari si può cercare di innovare cambiando un po', giocando sulla regia, sulle scenografie, sulla coreografia, ma non sempre, almeno dal punto di vista del pubblico, in questo caso il pubblico di Palermo, non sempre questi esperimenti riescono. La lettura del Corriere della Sera ha una copertina questa volta affidata a Gualtiero Marchesi, quindi diciamo normalmente sono artisti, ma in questo caso è un artista della cucina, è un piatto e la frase che compare sotto il piatto è oggi è già domani, sul piatto c'è del pesce, è un piatto molto colorato. Molto interessante un articolo di Leonardo Caffo che, come sempre in questo caso, prende spunto in realtà da più di un libro. Il titolo dell'articolo è Abbaio dunque sono o no? E le più recenti ricerche di animal cognition, cioè sulla cognizione appunto degli animali, tendono ad attribuire capacità mentali complesse a molte specie, ma sono studi che ricascano nell'antropocentrismo, cioè viene comunque sempre tutto parametrato a come funziona il nostro di cervello, e viene sempre in mente la frase del grande filosofo tedesco Ludwig Wittgenstein: se un leone potesse parlare noi non lo capiremmo, perché parlerebbe una lingua appunto a noi sconosciuta, non soltanto semanticamente. Un altro interessante approfondimento, questa volta di Serena Danna, alle pagine 16-17, sul razzismo in America, che viene definito una ferita aperta nell'America di Obama. L'orgoglio, la paura, la vulnerabilità del corpo nero, a meno di un anno dalle elezioni presidenziali, si discute sui temi proposti da Ta-Nehisi Coates, Marco Jefferson e Claudia Rankine. Svanisce il sogno di Martin Luther King, torna l'ira di Malcolm X, tre testi dominano le classifiche e in poco con nuove riflessioni. E del resto abbiamo sentito anche i fatti di cronaca sull'ennesima uccisione di un giovane nero. Questa è una delle tante ferite aperte dell'America, cioè le uccisioni di neri, a volte molto giovani, da parte spesso di poliziotti bianchi, che sono, comunque la si voglia vedere, un'indicazione di come ancora la società americana sia pervasa da forme anche subdole di razzismo che coinvolgono anche la polizia. Sulla domenica della Repubblica, come vi dicevo, anche qui si comincia già a guardare indietro al 2015, ad analizzarlo, i fatti dell'anno che se ne va, raccontati molto in breve dalle firme di Repubblica. Ma vi segnalo in particolare un articolo di Emanuela Audisio, che è una delle firme di punta della Repubblica per quanto riguarda in generale lo sport, ma poi in realtà è talmente brava che può scrivere di qualsiasi cosa, e qui ci racconta di Hemingway, grande scrittore Ernest Hemingway, bigliettini, documenti, lettere, foto. Il grande scrittore conservava tutto, una vera ossessione e un metodo di lavoro, ora in mostra a New York. Ultimissima segnalazione, guardando al 2016, che è l'anno delle Olimpiadi di Rio de Janeiro, un'intervista sulla copertina di Macro del Messaggero Saggero al sindaco di Rio. Giochi olimpici, una chance per Rio. Era l'ultima segnalazione che riesco a farvi. Un grazie a Filippa Ureggi in regia e una buona domenica a tutti. Ci sentiamo domani con i quotidiani italiani.